Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. La gallina non è un animale intelligente, lo si capisce da come guarda la gente. Non sarà un animale intelligente come cantavano Cocchi e Renato, ma secondo una ricerca condotta da un'università svedese, mi viene un po' da sorridere, l'odore di gallina sarebbe uno dei metodi più efficaci per tenere a bada le zanzare. Carmelo Lauricella fa una faccia un po' schifata, ma insomma voi pensateci, se volete provare organizzatevi un piccolo pollaietto domestico, ma nel frattempo ditemi come vi difendete dalle zanzare. Vi pizzicano? 800 24 00 24, aspettiamo i vostri interventi anche al 349 238 6666, ma intanto iniziamo con la nostra rassegna stampa. Elimination è lo slogan della giornata mondiale dell'epatite, che suona ancora più imperativo dopo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha fissato come obiettivo a lungo termine quello di ridurre le nuove infezioni di epatite virale del 90% e di ridurre il numero di morti a causa di epatite virale del 65% entro il 2030. Un obiettivo ambizioso, tra l'altro, se si considera che, secondo i dati del Centro Europeo per il Controllo delle Malattie, solo in Europa sono 10 milioni le persone che soffrono di epatite B o C, e la maggior parte dei quali senza saperlo. E ogni anno l'Unione Europea registra 57.000 nuove diagnosi di una di queste infezioni. Ma allora ce la faremo? Giriamo subito la domanda al professor Antonio Gasbarrini, ordinario di gastroenterologia all'Università Cattolica, direttore della divisione di medicina interna e gastroenterologia del Policlinico Gemelli di Roma. Buongiorno professore. Buongiorno a lei e buongiorno agli ascoltatori. Professore, il progetto è ambizioso, ma abbiamo gli strumenti per realizzarlo. Beh, diciamo che il progetto è ambizioso anche perché il progetto è un progetto mondiale. L'Organizzazione Mondiale della Sanità chiaramente non è che parla solo all'Italia, parla a tutti i paesi del mondo. In alcune aree del mondo il progetto è raggiungibile, in altre è chiaramente ancora un'utopia. Nel nostro paese diciamo che siamo partiti molto bene. Il nostro è il paese che primo al mondo ha messo in piedi il programma di vaccinazione obbligatoria dell'epatite B per i bambini, e quindi i nostri giovani dal 91 in poi sono tutti vaccinati per l'epatite B, quindi in qualche modo raggiungerà sicuramente questo obiettivo. E poi noi abbiamo un importantissimo programma di eradicazione dei soggetti infetti dall'epatite C. Al 18 luglio 2016 i malati trattati con i nuovi farmaci ad azione antivirale diretta di seconda generazione per la cura dell'epatite C cronica, che sono stati raccolti dai registri di monitoraggio AIFA a partire da dicembre 2014, risultano essere complessivamente, professor Gasbarrini, 51.819, corretto? Corretto. Ma l'obiettivo naturalmente è garantire un accesso universale alla terapia. Beh, diciamo questo, in Italia si stima che i soggetti infetti da epatite C siano tra lo 0,5 e l'1% della popolazione, quindi diciamo una quota variabile tra i 700.000 e 1 milione di soggetti, che sono indubbiamente tantissimi. E quelli registrati, quelli conosciuti, quelli in qualche modo che il nostro servizio sanitario nazionale controlla nel tempo, sono tra i 300 e i 400.000. Quindi diciamo, dipende come vogliamo vedere la medaglia, il 51.000 pazienti trattati è un dato sicuramente eccezionale, poi se si pensate che è stato ottenuto in poco più di un anno, è un dato veramente sbalorditivo. È chiaro che ne rimangono ancora 300-350.000 che devono essere trattati. E questo è una nuova sfida, professor Gasbarrini. Beh, diciamo che è una sfida, soprattutto se teniamo presente, come lei ha ben già detto nella premessa, che questi nuovi farmaci sono sicuramente una rivoluzione copernicana per la loro efficacia e il bassissimo numero di effetti collaterali. È anche vero però che costano molto, che costano parecchio, e un servizio sanitario nazionale fa molta fatica a poterli disporre e poterli dare a tutti. E questo, guardate, che non è un problema solo italiano, è un problema di tanti altri stati. In questo momento il problema è talmente sentito che questa valutazione dei costi, questo impatto che può avere sulle economie sanitarie, è un problema di tutto il mondo. Negli stessi Stati Uniti, che sono diciamo la patria di questi farmaci, c'è un problema enorme. Al Senato americano è stata addirittura fatta un'interrogazione se era etico o meno che farmaci così importanti dovessero costare così tanto. Sicuramente noi vedremo una nettissima riduzione dei prezzi, questo noi dobbiamo augurarci, che con l'aumento dei farmaci, e ancora ne arriveranno per la fine di quest'anno e i prossimi mesi del 2017, nuovi farmaci si abbasseranno? Una netta riduzione dei costi e a questo punto poter far cadere tutte quelle barriere. Ricordo che nel nostro paese ad oggi abbiamo ancora dei criteri che sono dei criteri di gravità, cioè pazienti gravi vengono trattati, meno gravi ad oggi non possono avere accesso al trattamento. Quindi il nostro vero obiettivo per il 2016, 2017, 2018 è poter far cadere tutte le barriere di prescrizione, proprio anche in qualche modo utilizzando la riduzione netta dei costi di questi farmaci e poter trattare tutti i pazienti che sono in carico presso il Servizio Sanitario Nazionale. Professor Gasbarrini, parliamo anche del sommerso, perché si può essere malati senza saperlo, perché l'infezione, almeno agli inizi, non dà sintomi, ma seppur non diagnosticata, comunque continua ad aggredire il fegato. Ci spiega che cosa succede? Diciamo che quando uno si infetta dei virus dell'epatite o B o C, ma ora parliamo del C in particolare, per molti anni non ha praticamente nessun segno, perché il fegato è un organo incredibile, un organo che rigenera in continuazione, un organo dotato di una grandissima riserva funzionale, per cui è poi un organo caratterizzato dal fatto che generalmente non fa male, non dà disturbi. Solamente nelle fasi più avanzate, che a volte si possono realizzare dopo 10, 15, 20 anni dall'inizio dell'infezione, si comincia a realizzare in un paziente su 3, un paziente su 4, una fibrosi epatica e poi una cirrosi epatica e poi tutte le varie complicanze, e spesso è solo lì che ci accorgiamo della malattia, questo dal punto di vista clinico. In realtà cosa basterebbe fare? Basterebbe fare dei piccoli trucchi, delle piccole accorgenze. E quali sono? Innanzitutto andare a testare le transaminasi, che sono un incredibile marcatore di funzione o di danno del fegato, e noi dovremmo inserirlo quando andiamo a fare degli esami del sangue ogni tanto, esattamente come andiamo a testare l'emocromo, la glicemia, le transaminasi. E poi noi abbiamo la fortuna di avere un test diagnostico eccezionale che è l'ecografia del fegato, che senza invasività per la persona e anche a basso costo riesce anche a vedere se il fegato ha qualche piccolo danno strutturale. Orbene, tutte le volte che le transaminasi sono alte, che il fegato ha dei piccoli danni, i virus dell'epatite vanno cercati. Con un banale prelievo del sangue si può sapere se ha avuto il contatto con l'epatite, e in quel caso bisogna rivolgersi all'epatologo di fiducia e vedrete che in poco tempo si ha accesso a terapia ad oggi sbalorditiva. Professor Gasbarrini, come sempre l'arma ottimale contro le grandi malattie infettive croniche è la prevenzione. Bisogna incrementare, fare delle campagne educative, specie nei più giovani, negli adolescenti, individuare i soggetti a rischio di aver contratto il virus. Vogliamo ripetere le modalità di contagio dell'epatite C? Ci stiamo concentrando sull'epatite C proprio perché, come ha sottolineato il professor Gasbarrini, dal 91 esiste un vaccino per l'epatite B. Professore. Allora sì, diciamo che quello che lei dice è estremamente importante, perché in qualche modo bisogna stare sempre attenti che non si diffonda il concetto che con farmaci nuovi, con vaccinazioni molto efficaci, poi queste malattie non sono più un problema. Queste sono malattie che si diffondono soprattutto col contatto con liquidi infetti, e ad esempio la via sessuale è una delle modalità di contagio, ma anche ad esempio piercing o tatuaggi fatti in posti che non ci garantiscono una sterilità assoluta degli strumenti utilizzati, e quindi in qualche modo anche rapporti sessuali, diciamo, non protetti con partner non conosciuti, no? Io purtroppo nel periodo, per fortuna, però nel periodo estivo spesso si hanno nuove conoscenze, bisogna stare cauti, bisogna proteggersi, perché questi virus rimangono assolutamente presenti nella nostra società, e soprattutto i ragazzi più giovani devono sempre sapere che ogni rapporto può essere un potenziale rischio, e quindi in qualche modo non abbassare mai la guardia. Se si ha un rapporto a rischio, valutare che si potrebbe essere presa un'infezione, quindi ad esempio andare a testare nei mesi successivi eventuali indicatori sierologici di un'infezione, e nel caso si ha malessere, si hanno problematiche generali, si hanno problematiche anche sessuali, non avere paura, rivolgersi al proprio medico e affrontare il problema. Sono tutte malattie che si curano, però bisogna, come ha giustamente detto, prevenirle con comportamenti corretti, evitare i comportamenti a rischio, e una volta però che in qualche modo i primi sintomi compaiono, affrontarle con grande serenità, perché siamo in grado di dare risposte eccezionali. Professor Gasbarrini, ha parlato di rapporti a rischio, anche per l'epatite C c'è un periodo finestra? Diciamo che ad oggi noi sappiamo che i virus dell'HIV, il virus B sono sicuramente più a rischio sui rapporti sessuali. Il virus C è un virus che si trasmette, diciamo, un po' meno frequentemente, però sai, meno frequentemente in medicina sì, vuol dire sempre poco. Dopo aver avuto un rapporto a rischio bisogna seguire in qualche modo la propria storia clinica in alcuni virus per poche settimane, in altri per alcuni mesi, perché spesso il sistema immunitario ha bisogno di un po' di tempo, perché in alcuni casi lo riesce a sconfiggere il virus, in alcuni casi non ce la fa, sono tutti virus molto abili a nascondersi, mimetizzarsi, e quindi bisogna seguire per un po' di tempo i soggetti. È chiaro che poi non bisogna però neanche drammatizzare, neanche entrare poi in qualche modo in una paranoia, no? di infezione. Sono malattie che si possono prendere, con buone precauzioni uno può essere molto sicuro, e poi bisogna sapere che se si prendono poi ora si è in grado di curarle. Professor Gasbarini, prima di salutarle, c'è anche un test a risposta rapida che consiste in un semplice prelievo salivare e offre risposta in sole 20 minuti. Non sostituisce il test, quello ematico, l'esame? Allora no, assolutamente no, la motivazione è che in questo momento i test, diciamo, validati, quelli certi, quelli dove si ha la certezza assoluta, sono ancora test sieroematici, cioè con un prelievo di sangue. Esistono dei test molto accurati come il test salivare che però poi devono essere confermati per l'assoluta certezza dai test ematologici del sangue, i classici prelievi del sangue. Il test salivare può dare un'indicazione, ma poi va confermato, anche perché ricordo che poi il virus dell'epatite esistono varie varianti e solamente i test degli esami del sangue ci dicono quale variante è, perché ogni variante ha accesso a una terapia diversa. Ricordiamo quindi, transaminasi e l'ecografia del fegato sono due esami che permettono di valutare la salute di questo organo così prezioso. Professore, le giro al volo un messaggio che arriva da Filippo da Pescara, che chiede se uno dei mezzi di trasmissione dell'epatite C può essere il dentista. Allora, diciamo che probabilmente per molti anni nel passato il dentista, ma a volte anche gli accessi agli ospedali, sapete, nel passato non si conoscevano questi virus e poi i sistemi di sterilità non erano gli attuali e sicuramente sono stati una fonte di trasmissione. Ad oggi, se un dentista, una struttura sanitaria segue semplicemente le regole che vengono date, e le regole sono estremamente efficaci, non viene sul rischio. È chiaro che se si va se si fanno delle procedure che determinano il contatto col sangue con in strutture non assolutamente non a norma, non adeguate, questo rischio c'è. Grazie professor Gasbarini per essere stato con noi, le auguro una buona giornata e magari anche buone vacanze. Grazie a lei, grazie a tutti. Andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade e ritorniamo subito dopo insieme, vi aspetto. Cuore e denari. Suo figlio mi ha detto che devi ridarmeli lei i miei 100 euro. 100 euro? Ma sì, guarda, io non posso più aspettare, io ho i miei problemi. Sono un sacco di spese. Lei che diceva che sono 100 euro? 100 euro! E non ci vogliamo mettere un po' di interesse? Sa che le dico, guardi, facciamo proprio 113. Ecco qua, 113. 113 Polizia Operatore 1, come posso aiutarla? Bravo, questa sì che è una bella mossa. E così dovete fare tutti i nonni e le nonne libere d'Italia, come ha fatto il Signore. Non ci dovete cascare. Forse qualcuno si ricorderà di questo spot di qualche anno fa che aveva come protagonista, l'avete riconosciuto, Lino Banfi, nonno libero, sono amico di tuo figlio, mi doveva 100 euro, mi ha detto di chiedere a te. E questa è solo una delle tante modalità che vengono utilizzate dai malintenzionati per imbrogliare le persone più anziane, spesso indifese. È un fenomeno che ci fa stringere il cuore ed è frequente soprattutto d'estate, perché questa è una stagione più a rischio in cui sembra che la microcriminalità aguzzi l'ingegno. Dedichiamo uno spazio a questo tema oggi a Cuore Denaria e lo facciamo con Stefania Marrazzo, primo dirigente della Polizia di Stato. Buongiorno dottoressa Marrazzo, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi Nicoletta, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Intanto, dottoressa Marrazzo, ricordo il nostro numero verde, i nostri ascoltatori all'800 24 00 24, vi invito a chiamarci, a raccontarci se vi è capitato di essere stati vittime di un raggiro, di una truffa, magari successe ai vostri genitori, ai vostri nonni, magari proprio in estate quando voi non eravate lì pronti ad aiutarli, e se volete condividete con noi la vostra esperienza e diteci anche come vi siete comportati, se vi siete sentiti vittime, attimo se magari siete riusciti ad accorgervi di quello che stava succedendo e a scombinare i piani di questi furfanti. Dottoressa Marrazzo, abbiamo anticipato, l'estate lo sappiamo è una stagione a rischio per tanti fattori. È una stagione a rischio perché coincide con il periodo delle ferie, quando certo. Si parte per le mete di villeggiatura, le mete turistiche, e spesso queste partenze però per vari motivi, per varie ragioni non coinvolgono tutta la famiglia, e questo costringe a volte le persone anziane a rimanere sole in casa e quindi sono maggiormente esposte ai rischi dei malintenzionati. È anche vero che magari l'anziano, proprio perché magari solo, diventa più fragile, abbassa un po' le difese, la solitudine lo porta magari anche quando va fuori a cercare di incontrare, magari parla con la persona che è vicino a lei quando va a fare la spesa al mercato, al supermercato. Insomma, sì, l'anziano cerca di socializzare e spesso e a volte può finire con persone che di questo si approfittano. Dottoressa Marrazzo. Questo è assolutamente vero, la solitudine chiaramente comporta una condizione di isolamento da parte dell'anziano, un senso di vuoto che lo porta poi ad un atteggiamento di maggiore apertura nei confronti del prossimo, anche quando il prossimo poi è un estraneo, è uno sconosciuto, e chiaramente non si è a conoscenza di quelle che possono essere le cattive intenzioni dell'altro. Certo. L'anziano ha bisogno di attenzione, ha bisogno di cura, ha bisogno di affetto, ha bisogno di comunicare, di raccontarsi, e in questo i truffatori sono molto abili perché sanno far leva proprio su quelli che sono i sentimenti e questo senso di condivisione, di apertura che avvertono le persone anziane. 800 24 00 24, il nostro obiettivo oggi è quello di dare consigli e indicazioni molto pratiche, ma di confrontare anche le nostre esperienze. Tra l'altro, dottoressa Marrazzo, voi della Polizia di Stato, no? Lo fate pubblicando come sempre il vostro vademecum, noi lo stiamo condividendo anche sui nostri profili social, ma il primo consiglio è sicuramente quello di tenere sotto mani i numeri di pronto intervento. Quindi se lasciamo, magari partiamo per le vacanze, i nostri genitori o i nostri nonni rimangono a casa da soli, ecco, già questo possiamo fare. Già questo lo possiamo fare, è giusto lasciare loro i numeri di emergenza, quindi di tutte quante le forze di polizia. Come appunto accennava lei, la Polizia di Stato è molto attenta a questa tematica, a questo fenomeno che si diffonde particolarmente nel periodo estivo, e lo fa con una serie di iniziative, lo fa organizzando incontri presso associazioni che si occupano delle persone anziane, lo fa realizzando delle brochure che contengono consigli utili e vengono poi distribuite o nei luoghi dove c'è maggiore affluenza di persone anziane, presso le parrocchie, presso i centri commerciali, e quindi c'è questa diffusione di questi messaggi. Lo facciamo anche grazie alla vostra collaborazione mass media, lanciamo questi messaggi che sono dei messaggi chiaramente rivolti a loro perché possano prendere le dovute precauzioni. Si fa anche attraverso dei mirati servizi di rafforzamento del controllo del territorio. Questo consente di poter avere una conoscenza molto più capillare, molto più dettagliata di quelle che sono le criticità che si presentano in una determinata area geografica, e quindi conseguentemente poi adottare tutte le misure necessarie per comprimere, quantomeno contenere, fenomeni di criminalità presenti in quell'area geografica. Dottoressa Marrazzo, anche per come per la salute, per prevenire serve conoscere. Esattamente, ecco, la conoscenza è il primo passo. Il primo passo, anello della catena. Per risolvere il problema. Ecco, e per conoscere è anche importante che chi subisce questo tipo di raggiri lo denunci, racconti un po' com'è andata. Per questo io invito i nostri ascoltatori a chiamarci, a raccontarci se a loro, a un loro genitore, a un loro nonno, a un loro parente è capitato, al loro vicino di casa, di essere vittima di un raggiro. Condividiamo le nostre esperienze. Dottoressa Marrazzo, io so che questo è un aspetto che le sta molto a cuore, perché spesso non si denuncia per vergogna. Purtroppo è vero. Ecco. Questo è vero perché quando la persona anziana subisce una violenza che poi diventa anche una violenza di carattere psicologico, avverte un profondo senso di vergogna e ha un certo timore, una reticenza a raccontare ai propri familiari quanto accaduto. Perché? Perché ha paura di essere tacciato per sprovveduto, per imprudente. Certo. E quindi preferisce magari mantenere il silenzio, ma questo chiaramente non aiuta. Non aiuta noi forze di polizia, non aiuta la polizia di Stato ad adottare tutti i correttivi necessari e chiaramente agevola e favorisce l'abile truffatore che fa leva proprio su questo silenzio, perché il silenzio gli garantisce l'impunità, gli garantisce un'assoluzione. Quindi parliamo, denunciamo, raccontiamoci. Dottoressa Marrazzo, facciamo qualche esempio delle truffe che sono più comuni? Sì, tenga conto che poi il truffatore è sempre molto originale nelle sue scelte. Perché ci sono, ieri parlavamo di giochi, dottoressa Marrazzo, e dicevamo poi ci sono le varianti del gioco, e quindi c'è la truffa e la variante della truffa. È la variante della truffa, perché il truffatore, vede, non è possibile realizzare un identikit del truffatore. Il truffatore, l'unica connotazione che si può riscontrare un po' in tutti quanti è la capacità di dialettica, la capacità di parlare, di vestire bene le proprie parole. È un affabulatore, è una persona molto ricercata nel linguaggio che sa con le parole dove deve arrivare e quindi ad ingannare la propria vittima. Questo è il tratto caratterizzante del truffatore. È una persona molto abile che cerca naturalmente di guadagnare la nostra fiducia. Cerca di guadagnare con l'inganno ovviamente la fiducia della povera vittima del malcapitato per poter poi ottenere un guadagno economico e quindi i beni della vittima. Diverse sono le truffe che abbiamo riscontrato. Sicuramente quelle più ricorrenti sono quelle legate ai falsi dipendenti di società di erogazione di servizi pubblici, corrente elettrica, acqua, telefonia. Bisogna sempre ricordare a tutti quanti i cittadini che queste società non inviano personale senza un preavviso, solitamente fanno precedere queste visite da un avviso che viene affisso, un avviso scritto che viene affisso nell'androne del palazzo. Quindi se qualcuno si dovesse presentare a bussare alla propria porta, non credetegli, non apritegli. Assolutamente, non devono aprire, devono anzi farsi dare le generalità della persona che sta bussando la porta e verificare facendo una telefonata alla società di appartenenza se effettivamente la società abbia mai inviato personale presso quell'abitazione, oppure affacciarsi anche alla finestra per verificare se è stata parcheggiata sotto casa l'auto di questa persona, se per esempio sull'auto ci sono dei segni distintivi, dei simboli che fanno riferimento alla società a cui dichiara di appartenere. È evidente che se i dubbi dovessero pervenire ed essere sempre più forti, niente di più facile che digitare il 113 o comunque qualsiasi numero di emergenza. Questa sicuramente è una delle più diffuse, ma non è l'unica. Un'altra truffa molto ricorrente è quella dello specchietto laterale dell'auto. E questa si realizza nel senso che mentre la vittima è alla guida della propria auto, viene affiancato da un altro conducente di un'altra auto, improvvisamente avverte un rumore fortissimo alla carrozzeria della propria auto e viene costretta a fermare la propria marcia dall'altro conducente. Che lamenta di aver avuto un danno al proprio specchietto. Noi ci fermiamo qua, ne conoscete altre? Alessandra Davarese in linea con noi, viene a sentire il GR insieme a noi, poi ritorniamo subito insieme con la dottoressa Marrazzo, Alessandra Davarese e le vostre storie. Tra poco. Cuore e denari. Eccoci, siamo tornati insieme, stiamo parlando e analizzando un fenomeno che è più frequente in estate, quello delle truffe, dei raggiri agli anziani. In linea con noi abbiamo il piacere di avere la dottoressa Stefania Marrazzo, che è primo dirigente della Polizia di Stato. Il consiglio è: non abbiamo paura di denunciare, prendiamo consapevolezza, non lasciamo gli anziani da soli, se siete vittima di un raggiro, di una truffa, denunciatelo, parlatene anche con i vostri familiari, con i vostri amici. Ci sono delle truffe che ritornano, che sono classici con varianti. La dottoressa Marrazzo ci raccontava quello dello specchietto. Dottoressa Marrazzo, eccoci di nuovo insieme. Eccoci qui. Ma non è soltanto quello, naturalmente. No, la casistica è piuttosto varia. Abbiamo un catalogo, vero? Catalogo, purtroppo, e ovviamente sempre suscettibile di variazioni, perché, come dicevo prima, sono molto originali nelle loro innovazioni i truffatori. Ma un'altra truffa molto ricorrente, per esempio, è quella della macchia di gelato. Qui solitamente si realizza durante una passeggiata della persona anziana in un parco, che viene avvicinato da una mamma che ha in braccio un bambino che sta mangiando un gelato. Accidentalmente questo gelato cade sulla giacca dell'anziano e la mamma si precipita subito in soccorso per aiutare l'anziano a ripulire la giacca. Gliela fa togliere, gliela fa filare, ma poi in realtà, invece di ripulire la giacca, ripulisce il portafoglio. E quindi anche questo è un tipo di truffa molto ricorrente. Ecco, quindi è importante conoscerle. La mia mamma, a cui avevano delle amiche raccontato della truffa dello specchietto, è stata avvicinata da questo ragazzo che le ha detto: signora, mi ha rotto lo specchietto. E devo dire, poi quando ce l'ha raccontata ci è tremato un po' il cuore, ma con grande fermezza mia mamma ha detto: ma ancora quella dello specchietto, ma si aggiorni, è vecchia, la so anch'io. E questo ragazzo è scappato a gambe levate. Quindi il potere della condivisione della conoscenza le è andata bene. Alessandra da Varese, buongiorno. Sì, buongiorno. Volevo raccontare un fatto che è accaduto un po' di tempo fa a mio padre, anziano, con difficoltà di ambulazione. Stava entrando in posta per cambiare un assegno. Una mendicante che era fissa, come succede in molti posti, fissa davanti alla struttura, ha visto che mio padre tentennava nel camminare e allora si è offerta di accompagnarlo dentro. E poi mio padre è arrivato al momento di cambiare questo assegno. Fortunatamente gli impiegati sono stati molto sensibili, perché si sono accorti che qualcosa non andava, hanno chiamato il direttore, hanno temporeggiato nel dare i soldi a mio padre, sono riusciti nel frattempo a chiamare, a ricostruire insomma il nostro albero genealogico, e sono riusciti a chiamare mio fratello, che prontamente è arrivato, e in modo per controllare, insomma, per ricevere questi soldi. Di fatto cosa succedeva? Che mio padre, lui voleva poi prendere questi soldi e darli a questa mendicante. Sensibilità, ecco, per cui lui dopo era convinto e mi ha detto: ma quella persona mi ha aiutato. Ora, ovvio che mio padre, i soldi sono suoi e ne fa, può disporre, ecco. Certo, non era quello il modo. Però questa è una bella storia, perché, dottoressa Marrazzo, voi lavorate anche sulla comunicazione per impiegati di banca, gli uffici postali, che per sensibilizzarli, così quando allo sportello si presenta un anziano, fa una richiesta spropositata, anche l'impiegato di banca, come è successo nel caso di Alessandra, può attivarsi. Assolutamente sì, quando la Polizia di Stato mette in campo questa attività di comunicazione lo fa chiaramente rivolgendosi anche a tutti quanti gli enti maggiormente interessati, e quindi in questo caso anche gli istituti di credito e gli uffici postali, perché chiaramente il truffatore ha bisogno di prendere somme di denaro e quindi approfitta del fatto che la persona anziana vada spesso da solo, certo, presso l'ufficio postale per ritirare la propria pensione o presso l'istituto bancario per fare un prelievo. E quindi proprio in questi momenti bisogna fare molta attenzione. Se è possibile non andare da soli, ma farsi accompagnare da un amico o da un parente, e laddove si ravvisino dei dubbi, delle perplessità o si abbia la sensazione di essere comunque osservati, di riferire quanto sta accadendo, la propria percezione di insicurezza proprio ai dipendenti di queste strutture, di questi enti, che poi immediatamente attiveranno i canali di sicurezza e quindi le forze di polizia. Dottoressa Marrazzo, io la ringrazio, ricordo il vostro vademecum, noi lo stiamo condividendo anche sui nostri profili social. Vuole salutarci con due indicazioni, uno per le persone anziane e uno per i familiari, figli, nipoti e parenti stretti? Certo, io per le persone anziane voglio ricordare che la Polizia di Stato non va mai in ferie, la Polizia di Stato lavora 24 ore su 24 al servizio dei cittadini e siamo sempre a loro totale disposizione, di non avere mai nessuna esitazione a digitare il nostro numero di riferimento. Per quanto riguarda invece i familiari, il consiglio che mi permetto di dare è quello di far sentire spesso e anzi tutti i giorni la propria presenza nei confronti delle persone anziane con una semplice telefonata e farli sentire meno soli. Grazie alla dottoressa Stefania Marrazzo per essere stata con noi, ricordo primo dirigente della Polizia di Stato. Grazie. Grazie. Allora, intanto l'odore della gallina per tenere lontane le zanzare ha acceso molto dibattito via su WhatsApp, anche mi stanno arrivando al 349-238-66 degli altri anche messaggi con i vostri rimedi e anche su Twitter. Allora, Alessandro su Twitter sui rimedi delle zanzare suggerisce di cospargere abiti e letto con foglie di basilico fresco. Lui, che è uno molto sensibile, con questo rimedio tiene lontano le zanzare. Un altro ascoltatore tra i tanti, voglio leggervelo, Fabio da Ameglia, dice che di solito porta con sé sua moglie perché la moglie attira tutte le zanzare e quando non può portarla con sé mette un po' di repellente sulla pelle e va bene così. E poi naturalmente gerani, citronella, voi continuate a scriverci e ne verremo a capo, ci coinvolgeremo naturalmente anche un esperto che ci darà una mano se volete intervenire in diretta 800 24 00 24. Ma quindi noi siamo pronti sempre in tema di estate per il prossimo argomento che introduciamo così. Mamma mia che mal di pancia, ma che male mi è venuto all'improvviso, ma chissà chissà perché. È intelligente, è sensibile, è protettivo, ma anche irritabile, umorale, abitudinario, bizzoso. Conoscete una persona con queste caratteristiche? Forse vi riconoscete dalla descrizione che gli amici fanno di voi? Intanto che ci pensate e mi mandate anche i vostri rimedi anti-zanzare, vi dico che c'è un organo che risponde a questa descrizione, l'intestino. Io mi sono fatta l'idea che non ami le vacanze, gli spostamenti, i cambi di programma, di abitudine, che si irriti facilmente, si stressi, il caldo non gli piaccia. Insomma, diciamola tutta, l'estate non è proprio la sua stagione d'oro. Quindi, uomo avvisato, pericolo evitato. Parlo di pericolo, sì, perché le bizze del nostro intestino possono rovinarci anche le vacanze. Allora oggi non uno, ma due esperti a nostra disposizione per aiutarci a giocare d'anticipo, puntando sulla prevenzione, ma anche per suggerirci quei consigli per in caso di problema, quando il problema si verifica in vacanza. Quindi parleremo anche di SOS, quindi che cosa fare per spegnere la situazione in acuto. La nostra prima ospite è la dottoressa Beatrice Salvioli, la conoscete bene, gastroenterologa di Humanitas, ricercatrice all'Università di Bologna. Buongiorno, bentornata. Buongiorno Nicoletta, grazie mille. E con noi anche il nostro, posso dire così, Luca Voledo, naturopata, colonna del Daily Lab. Buongiorno dottora Voledo, bentornato. Certo che si può dire così, buongiorno, piacere tornare a Cuore Denari. Allora, dottora Voledo, inizio subito da lei perché nel suo fortunatissimo blog lei propone un semplice, lo chiamerei autotest, che ci aiuta a capire se stiamo mettendo il nostro intestino nella condizione di lavorare al meglio, in pieno benessere, oppure se, anche se inconsapevolmente, gli rendiamo la vita difficile. È uno sgarbo che ci farà poi pagare a caro prezzo, perché poi il conti li presenta sempre. Allora, noi siamo pronti, ci aiuta? Certo, proviamo a fare ai nostri ascoltatori qualche semplice domanda, ne ho pensate 5, che possano favorire una sorta di autovalutazione. Sì. Chiediamo allora innanzitutto se sono certi, per esempio, di masticare abbastanza. Se si sono mai soffermati a contare, per esempio, quante masticazioni dedicano a ogni boccone, perché la digestione, come ben si sa, comincia in bocca e questo aiuta a evitare l'eccesso di fenomeni fermentativi e putrefattivi e tante pance gonfie, per esempio. Ok, quindi pensate se buttate giù rapidamente quello che mangiate, oppure se vi attardate giustamente a masticare. Viviamo sempre così di fretta che ci dimentichiamo di masticare lentamente, dottor Avoledo. Molto ecco. Frequentemente capita. Comunque. Questo. Secondo punto, mangiamo fibra a sufficienza, e sto pensando ovviamente alla fibra alimentare, sia di tipo solubile e insolubile, sono fondamentali per regolarizzare il transito intestinale. Per fare questa valutazione bisogna verificare se si assume la giusta quantità di cibi che contengono fibra, pensando a frutta, verdura, legumi, cereali integrali e frutta in guscio. Perché anche la frutta in guscio ha la fibra. Certo, noci, mandorle, pinoli, fibra preziosissima. Quindi, bene, quindi masticare e poi vediamo quanta fibra è presente nella nostra dieta. Terzo punto? Terzo punto del nostro mini test. Quanti bicchieri d'acqua si bevono ogni giorno? Sembra banale, non ci si pensa, ma è difficile avere un normale transito se il contenuto intestinale non è sufficientemente idratato e ammorbidito. Proviamo a fare il conto di quanti bicchieri d'acqua dalla mattina alla sera ingeriamo. Quindi quanti bicchieri d'acqua avete bevuto sino ad ora? Sono le 11:19. Dottor Avoledo. Quarto punto. Facciamo tutti i giorni un po', tutti i giorni o quasi un po' di sport, anche il nostro intestino ha bisogno di moto per restare in moto e quindi ginnastica anche per l'intestino. E arriviamo all'ultimo punto? Arriviamo all'ultimo punto, non ci si pensa a sufficienza, ma lo stress, le tensioni nervose, le tensioni emotive quotidiane si riverberano anche sull'intestino e più in generale su tutto l'apparato digerente. Siamo sufficientemente capaci di smaltirlo questo stress, oppure sull'intestino si scatenano le somatizzazioni? Vi trovate descritti, volete parlarne con noi 800 24 00 24, per avere anche delle indicazioni e delle soluzioni. Ma dottoressa Salvioli, non è sempre solo colpa del nostro stile di vita? Ci sono degli intestini particolarmente sensibili e irritabili, la pancia gonfia, borbotta, diventa dolente. Ci aiuta un po' a inquadrare il problema? Sì, ha ragione, nel senso che l'intestino può nascere per una questione genetica o di predisposizione familiare più irritabile. Infatti spesso i figli di genitori che soffrono di intestino irritabile hanno anch'essi intestini irritabili, così come sono stati fatti diversi anni fa degli studi sui gemelli omozigoti, in cui si riscontrava questo fattore in comune, per cui non solo la predisposizione ma anche fattori ambientali. Gli ambientali può essere gli interventi chirurgici, gli alimenti che mangiamo, infezioni, quindi quelle gastroenteriti che si possono prendere quando si va all'estero, quando si mangia qualcosa di alterato, i farmaci che si assumono, e poi non bisogna dimenticare i fattori psicosociali, quindi tutto quello che rientra nello stress. Stress inteso non solo fisico ma anche psicologico, perché Nicoletta, lei sa bene, ne ha parlato diverse volte, che a livello dell'intestino noi abbiamo il secondo cervello, quindi è un cervello molto sensibile che comunica direttamente col nostro primo cervello. Dottoressa, ci aiuta a leggere e a specificare alcuni sintomi che generalmente mettiamo tutti insieme per descrivere che abbiamo un po' la pancia in subbuglio? Diciamo pancia gonfia. Allora, ci sono dei criteri internazionali, recentemente con precisione a maggio sono stati pubblicati i criteri di Roma 4, quindi sono criteri che definiscono questo disturbo come un dolore a livello dell'addome associato alla defecazione, può migliorare ma può anche peggiorare dopo la defecazione, oppure associato a cambiamento della forma delle feci, quindi possono essere più feci più dure, feci più molli, quindi liquide, e quindi è tutto un insieme di sintomi che spesso si accompagnano anche a gonfiore, quindi quella sensazione di meteorismo, e alcune volte anche a distensione. Spesso le donne, perché le donne sono quelle più frequentemente coinvolte, ci riferiscono che a fine giornata sembrano di 6 mesi di gravidanza, quindi con pance assolutamente molto distese, molto, e molto fastidioso ovviamente. Dottora Voledo, si cercano solitamente come prima battuta dei rimedi dolci, di ricorrere alla natura, e quindi immagino che tra le persone che consultano il suo ambulatorio molte persone proprio le chiedano cosa fare per questa pancia gonfia, per questo intestino che fa le bizze. Si parte sicuramente un po' dalla correzione della dieta. Tra l'altro, un editoriale pubblicato sul British Medical Journal rilancia l'importanza e l'efficacia di una dieta a basso contenuto di FODMAP. Praticamente sono alimenti che sono molto fermentabili e scarsamente assorbibili. Si parla di alimenti che contengono oligosaccaridi, disaccaridi, monosaccaridi, insomma tutte delle parole molto difficili, ma in sostanza ci mettono nella condizione di capire che anche alcuni tipi di alimentazione possono irritare in modo particolare il nostro intestino. Proviamo a iniziare da qui. Sì, è vero, parole difficili, vediamo di farla semplice come piace a noi. Questa sigla FODMAP, che è un acronimo della lingua inglese, in realtà vuol dire proprio appunto una serie di sostanze, di piccoli carboidrati, un po' come lo zucchero a catena corta, in particolare il fruttosio, il lattosio, fruttani, galattani, che tante persone, non tutte, possono faticare a digerire. Si trovano in alimenti anche molto comuni, che portiamo in tavola tutti i giorni, anche più volte al giorno. Per esempio quali? Cibi ad alto tenore di questi FODMAP sono per esempio tanti tipi di frutta, come le mele, le pere, i fichi, le albicocche, o alcuni tipi di verdura come i broccoli, i cavoli, anche cibi assolutamente benefici per altri versi, carciofi, barbabietole, anche il latte e i latticini, piuttosto che molti tipi di cereali, anche alcuni dolcificanti come il fruttosio, il miele, lo xilitolo. Si è visto che la limitazione di questi cibi che contengono questi FODMAP può avere degli effetti addirittura strabilianti in alcuni casi nelle persone che soffrono della sindrome dell'intestino irritabile. Non è necessario eliminarli in genere completamente dalla dieta, anche perché ci si priverebbe appunto di cibi, certo, molto benefici, di cui spesso appunto decantiamo i meriti. Basta semplicemente in genere ridurli per qualche settimana, con l'aiuto ovviamente di un dietologo, di un gastroenterologo, di un nutrizionista, per poi reintrodurli gradualmente e magari stare attenta che quando la situazione sia un po' normalizzata, all'interno di un singolo pasto non si esageri proprio con questi cibi un po' critici per il contenuto di questi FODMAP. Dottoressa Salvioli, vuole aggiungere qualcosa? Sì, allora, queste diete sono d'accordissimo, i risultati in letteratura ci sono, però è diventata anche, mi lasci passare il termine, una moda, nel senso che è molto semplice per noi medici dire non mangiate questo, poi dopo bisogna confrontarsi com'è la vita quotidiana di queste persone. Io questa dieta l'ho spesso criticata perché esclude tantissimi tipi di alimenti ed è utile per mettere a riposo l'intestino, diciamo per 2 settimane, ma non di più, nel senso che poi dopo le persone tendono ad essere assolutiste e a eliminare quasi tutto. Diciamo che la parte principale, a mio avviso, è capire perché l'intestino è così irritabile, perché ci può essere una minima infiammazione non curata che porta a non tollerare tutti questi cibi che, come giustamente ha detto il dottore, fanno fermentare e quindi peggiorano i sintomi. Allora io sono sempre più alla ricerca della causa piuttosto che eliminare e poi dopo reintrodurre col rischio di ricausare i sintomi. 800 24 0024 è il numero verde che mettiamo a disposizione con i nostri 2 esperti pronti a darvi spiegazioni ma anche consigli. Parliamo di una stagione difficile per il nostro intestino, ci sono intestini che quando vanno in vacanza iniziano a fare le bizze e ci sono persone che i disagi dei primi giorni di vacanza già li mettono in conto. Allora si possono prevenire, si possono evitare, lo faremo naturalmente chiedendo consigli ai nostri esperti. esperti, partendo magari dalle vostre segnalazioni, dal vostro problema. Se volete intervenire in diretta potete anche scriverci al 349-238-6666. Dottora Voledo, sempre nel suo blog sono andata a leggere qua e là e ho visto che lei suggerisce una pianta che a me piace molto e che sembra molto amica della salute dell'intestino, la malva. Sì, è vero, ne abbiamo parlato tante volte anche a quelle denari, anche in altri ambiti, perché la malva è un rimedio per certi versi polivalente. Sì, è un po' un prezzemolo, per dire, perché va bene un po' per tutto, ma e poi è particolarmente efficace. È particolarmente efficace, è particolarmente frequente, si può anche andare a raccoglierla nelle zone magari non tanto contaminate del nostro paese. E qual è la sostanza utile della malva? Contiene mucillagini, che sono appunto appartenenti al gruppo delle fibre, mucillagini che si imbibiscono, si riempiono in qualche modo di acqua, si gonfiano e possono aiutare a regolarizzare il transito intestinale. Non tutti sanno però che la malva è meglio assumerla sotto forma di tisana, ma senza farla bollire come si fa invece per la camomilla o il tè, ecco. Ma utilizzandola sotto forma di macerato a freddo, cioè mettere un cucchiaio di tisana, di foglie, fiori di malva in una tazza d'acqua fredda, si lascia a temperatura ambiente, si lascia riposare magari dalla sera prima fino alla mattina e poi senza neanche mai aver acceso il fuoco si sorseggia. Quindi è perfetta, perché così non stiamo neanche ad accendere, no, il gas, l'acqua che bolle, abbiamo caldo. Voi lo sapevate che la malva non va fatta bollire? 800 24 00 24, noi andiamo a sentire i mercati e poi ritorniamo subito dopo insieme. Se state preparando le valigie e volete garantire al vostro intestino una buona vacanza, chiamateci, ma chiamateci anche per dirci che cosa fate per dare regolarità al vostro intestino. Bevete, masticate a lungo, assumete probiotici, che fate? Raccontatecelo. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Cuore e denari. Pancia, misurati la pancia. Per chi parte, per chi resta, se l'intestino è irritabile, sensibile, bizzoso, chiamateci 800 24 0024. Se funziona male, se soffrite di stitichezza, invece avete bisogno di correre spesso in bagno, dateci un colpo di telefono e diteci anche se la vostra pancia avverte dolori un po' simili ai crampi. In linea con noi la dottoressa Salvioli, gastroenterologa all'Humanitas e ricercatrice all'Università di Bologna, e il dottor Luca Voledo, naturopata. Dottoressa Salvioli, ci aiuta a dare una definizione chiara di stitichezza e un'altrettanto precisa di diarrea? Perché credo sia utile, perché ci sono persone che pensano di essere stitiche, ma che per il medico non possono essere definite tale, e la stessa sorte tocca a chi ha il problema opposto. Ha ragione, una volta si pensava, sì, non si metteva tanto al centro dell'attenzione il paziente, nel senso che si davano dei criteri e si definiva stitichezza se una persona andava meno di una 3 volte alla settimana di corpo e diarrea se andava più di 3 volte al giorno. Ora, per quanto riguarda invece stitichezza, si è visto che le persone si considerano stitiche perché non sono soddisfatte della loro andata in bagno. Le faccio un esempio: uno può andare in bagno tutti i giorni ma non svuotarsi completamente e questo dà la sensazione di non essere soddisfatto, per cui vanno dal medico, dicono io sono stitico, il medico fa quelle domande dogmatiche, quante volte va tutti i giorni, allora non è stitico. No, in realtà è una stitichezza, una stipsi che il paziente riferisce come disagio, quindi certo, diciamo che è proprio la qualità di vita. Per contro, la diarrea noi medici definiamo come maggiori evacuazioni durante la giornata di feci non consistenti, le persone si definiscono diarroiche anche se vanno solo una volta ma male, quindi feci sfatte, non formate, cibo indigerito che notano, quindi basta solo una volta, quindi diciamo che è cambiato il criterio con cui noi valutiamo le persone, le ascoltiamo di più e cerchiamo di capire il loro disagio. Sì, meno male. Allora, sono anni che il mio intestino, ci scrive un ascoltatore, mi dà problemi. Finalmente un gastroenterologo, ecco, hanno imparato ad ascoltarli, vede dottoressa Salvioli, mi ha rivelato che a suo modo di vedere il problema è legato alla stitichezza. Io mi accorgo che quando mi trovo nella città in cui lavoro ho problemi, a casa mia no. Come posso risolvere questo problema? E ci aggiunge psicosomatico. Ho letto questo messaggio perché è molto interessante, perché molte persone avranno lo stesso problema trasferendosi magari nelle località di villeggiatura. Allora, dottoressa Salvioli, dottora Voledo, ci date una mano? Sì, allora mi ricollego al suo discorso che l'intestino è abitudinario, cioè l'intestino è, lui vuole la sua routine. Ora, se vive questa signora in una città nevrotica e frenetica come Milano, io la capisco perfettamente, perché ci metti del tempo ad arrivare al lavoro, quindi devi uscire presto da casa, non hai tempo per fare una buona colazione, seduta, mangiare lentamente, come è già stato detto, per cui l'intestino è contratto, non si rilassa, perché il rilassamento a livello intestinale, il rilassamento psicologico nell'intestino equivale a dire una buona coordinazione di muscoli che aiutano quando si deve andare di corpo, per cui si tende a stringere, quindi a trattenere lo stimolo, perché sei di corsa, perché sei in macchina, nel traffico, hai lo stress, se ne hai una riunione importante, quindi si differisce il momento in cui uno va di corpo, si accumula finché il fine settimana ci si rilassa e poi dopo rilassi anche i muscoli. Dottora Voledo, io ritorno al suo blog che invito i nostri ascoltatori a leggere, oltre che a leggere i post che scrive per il Daily Lab, perché già il suo, la sua indicazione della malva che non va fatta bollire è piaciuta molto. Per il nostro ascoltatore e per chi andrà in vacanza e quindi dovrà stare magari qualche giorno con un intestino che sembra non voler funzionare regolarmente, quali sono i suoi rimedi e i suoi suggerimenti? Oltre a tutto quello che ha detto giustamente la dottoressa Salvioli, che sposo integralmente, per quello che riguarda l'ambito, diciamo così, naturale, ci sono delle soluzioni che possono tornare comode. Farmacie, erboristerie, ormai anche supermercati sono pieni di prodotti che possono tornare utili, alcuni anche un pochino critici, che possono essere utilizzati ma con moderazione. Per esempio sono molto utilizzate le piante cosiddette ad antrachinoni, che sono dei principi attivi che si trovano nella senna, nella frangola, nel rabarba, le cosiddette 8, 10, 22 erbe, che sicuramente funzionano, ma solo per l'uso sporadico, perché sono un po' irritanti sull'intestino. Molto meglio, appunto, come dicevamo, agire di anticipo quando si sa che si cambia aria, si va in vacanza, con prodotti più delicati, come ad esempio appunto la malva di cui ho parlato, oppure lo psiglio, che è una sostanza vegetale, anche qua si usa la polvere dei semi di questa pianta, anche lei ha mucillagini, e si comincia ad assumere magari qualche giorno, anche qualche settimana prima, utilizzando tantissima acqua. Queste sono anche loro mucillagini, tipo che si rigonfiano d'acqua e svolgono un'azione meccanica. L'importante però è assumere sempre tanta acqua, perché sennò fanno l'effetto opposto. Allora, due ascoltatori tra i tanti che hanno chiamato all'800240024 che ci permettono di dare ulteriori indicazioni partendo proprio dal loro caso. Francesca da Rimini, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno ai dottori, grazie per avermi richiamato. Grazie a lei, Francesca. Allora, andiamo. Allora, io ho 49 anni, penso di avere uno stile di vita piuttosto sano, sono vegetariana da tantissimo e mangio correttamente, sto molto attenta. Ho eliminato. Quindi il suo intestino non dovrebbe lamentarsi di lei, nonostante questo? Ha qualcosa da dire. Da sempre il mio intestino, anche secondo la definizione della dottoressa, penso proprio che sia pigro e di soffrire di stitichezza, ma soprattutto il mio intestino, ci sono periodi in cui non si muove, io lo sento, è fermo, è lì e per giorni e giorni sciopera. Allora, dottoressa Salvioli, un intestino che addirittura sciopera per alcuni giorni, capisco che non si possano fare delle diagnosi telefoniche, ma è anche importante segnalare se ci sono dei campanelli d'allarme che vanno riferiti, oppure invece una situazione che preoccupa ma che non deve dare no? Sì, i campanelli d'allarme sono solitamente quando un intestino da regolare diventa improvvisamente irregolare, in questo caso stitico, però per un lungo periodo di tempo. In più, se c'è una familiarità per tumori all'intestino, è necessario rivolgersi al medico. Da quello che dice la signora mi sembra di capire che a cicli va questo addormentamento, quindi bisogna innanzitutto capire se sono in coincidenza periodi di stress, e io direi, come il dottor Avoledo, di prenderlo un po' in anticipo, nel senso, se si inizia, perché uno, la prima cosa per curarsi è la consapevolezza del proprio corpo, e se uno già avverte i primi segnali dell'addormentamento dell'intestino, è utilissimo lo psyllium, come ha detto, e sono utilissimi anche i massaggi addominali e certi tipi di ginnastica che coinvolgono la respirazione diaframmatica, perché noi durante il periodo lavorativo siamo, essendo sempre un po' sotto stress, siamo in deficit di respirazione, viviamo in apnea, non coordiniamo bene i muscoli, quindi questo tipo di ginnastica aiuta molto l'intestino. Andiamo a Loredana, che ci chiama da Roma. Buongiorno Loredana. Buongiorno, io ho 42 anni e uguale, io praticamente combatto sempre con questo intestino che mi prende proprio dei dolori alla pancia forti, che delle volte che se non mi sdraio proprio non riesco a stare in piedi, cioè stringe tutto, non sopporto nulla sulla pancia. Delle lame, Loredana. Come perfetto. Vero? Dei dolori atroci, e delle volte non arrivo a fine serata, specialmente poi io quando sono troppo seduta, però magari il lavoro poi mi porta a stare magari delle volte seduta. Certo. Allora, però è una dura. Brava Loredana, è dura, dottora Avoledo. Le azioni di cui parlava la dottoressa Salvioli si applicano probabilmente anche molto bene al caso di Loredana, e poi sarebbero opportune ovviamente delle valutazioni fatte ad hoc. Però segnalo un rimedio magari non tanto conosciuto, che è forse uno dei rimedi più interessanti per tutto questo genere di problematiche, e ovviamente sto parlando sempre della mia specificità, cioè dell'ambito naturale, che è l'olio essenziale di menta piperita, che è la menta comunemente utilizzata nell'industria dolciaria, diciamo, ma l'olio essenziale, quindi l'estratto concentrato, ha un'attività spasmolitica sulla muscolatura liscia del colon e attena ai crampi, molto ben studiata. Sono stati fatti anche degli studi cosiddetti randomizzati in doppio cieco, pubblicati su riviste scientifiche, quindi con tutti i crismi della scientificità, che hanno visto che dopo almeno quattro settimane di trattamento con questo prodotto naturale si assiste a una riduzione dei dolori addominali, alla riduzione del meteorismo e della pancia gonfia, che in alcuni casi può essere anche estremamente significativa. Mi spiega come si usa? Allora, l'ideale è acquistare l'olio essenziale in capsule predosate, questo per evitare appunto problemi in chilidosi, perché si potrebbe assumere anche il boccettino di olio essenziale, ma è molto complicato, se rischia di far pasticcio. Ormai sono in vendita con diversi nomi commerciali anche le capsule predosate sotto forma di integratori alimentari. Si prendono un paio di volte al giorno, in genere una ventina di minuti prima dei pasti, e si assumono appunto per periodi relativamente prolungati, cioè non oggi per domani. Dopo un mesetto si possono assaggiare i benefici di questo tipo di assunzione. Non andrebbe tanto utilizzato, con alcune controindicazioni, nelle persone che soffrono di un altro disturbo di carattere digestivo, che è la malattia del reflusso gastroesofageo, l'ernia datale, perché la menta sappiamo che è una nell'elenco degli alimenti incriminati. In quel caso no, a meno che non siano delle formulazioni che esistono anche loro di carattere gastroresistente, quindi allora la menta si scioglie, diciamo così, arriva direttamente nell'intestino. Allora, possiamo augurare agli intestini dei nostri ascoltatori una buona vacanza, e vorrei aggiungere il messaggio di Giuseppe da Como, che ringrazio. Ci scrive: da circa 7 mesi ho intrapreso una continua e costante attività fisica, corsa, bici, e sto riscontrando dei benefici incredibili, sia mentali che fisici, oltre che riuscire a sveltire ben 20 kg, abbattendo quasi del tutto i dolori all'addome, stress mentale, sentendomi finalmente un'altra persona, non più nervosa e stanca come una volta. Consiglio a tutti attività fisica. Dottoressa Salvioli, l'abbiamo anticipato? Lo assumo come assistente, direi che è perfetto. Fantastico. Dottora Avoledo, lei l'assistente l'ha trovato, vengo io. Benissimo, bravo Giuseppe comunque. Grazie alla dottoressa Salvioli, grazie a Luca Avoledo. Grazie a voi. Grazie a voi. Buona giornata e buone vacanze. E noi prepariamoci con le zanzare, tantissimi rimedi, tra poco un esperto, 800 24 00 24, e poi raccontateci se state provando le nostre ricette randagie consigliate dal nostro amico Andrea Ribaldone, chef stellato dei Due Buoi di Alessandria. Andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e poi ritorniamo subito indietro con Zanzare e Fornelli. Cuore e denari. Eccola qua, questo ronzio che non ci fa dormire di notte, anche perché non è che il preludio di punture e pruritini, insomma, quando c'è la zanzara si sente in vari modi, ed è per questo che quando arriva la stagione estiva cerchiamo di attrezzarci nei modi più ingegnosi per difenderci e tenerle lontane. 800 24 00 24, se volete parlarne con noi, ci avete mandato tantissimi rimedi. Raccontandoci come cercate di difendervi dalle zanzare. Molti di voi puntano sul naturale, quindi camomilla, geranie, addirittura foglie di basilico. C'è chi invece si porta la moglie appresso, perché si dice, no, che le persone con il sangue dolce siano le preferite dalle zanzare. Ma sarà davvero così? In linea con noi il dottor Claudio Venturelli, entomologo dell'AUSL della Romagna, autore con Marina Marrazza di Questione di Culex, il libro completo della zanzara, Se la conosci la eviti, edito da De Agostini. Buongiorno dottore o professore? Dottore, dottor Venturelli, buongiorno. Allora, dottore, si dice la zanzara pizzica le persone con il sangue dolce. È un modo di dire, immagino. È un modo di dire. Il sangue che scorre nelle nostre vene è simile un po' in tutte le persone. La zanzara, diciamo che si orienta meglio sentendo gli odori. E tra questi l'acido lattico e poi dopo l'anidride carbonica che emettiamo con la nostra respirazione. Ci sono però delle persone che piacciono di più alle zanzare di altre. Le conosco bene queste persone, io sono uno di quelle, per questo che le conosco molto bene. E è vero, alcune sono più appetite di altre, è anche vero però che alcune hanno una maggiore sensibilità al liquido salivare che viene immesso dalla zanzara con il morso che procura proprio per prelevare la goccia di sangue, e quella sostanza in alcune persone dà una reazione di pruriginosità molto più elevata che in altre. Mi è capitato di vedere persone che dicevano io non vengo mai punto dalle zanzare, essere punte e sostenere ancora di non esserlo, perché non avevano avuto il prurito, quindi la reazione successiva. Dottor Venturelli, i nostri amici si sono scatenati suggerendoci tanti rimedi, oltre che naturalmente a quelli classici, ma camomilla, geranio, basilico, funzionano davvero? Lei ha qualche segreto da darci? Funzionano poco se le consideriamo come piante che dovrebbero tenere lontane le zanzare. Anche qualcuno dice di strusciarle sulla pelle, e insomma non hanno hanno una qualche efficacia, diciamo così, soprattutto placebo, direi io, perché hanno una durata davvero bassa, anche se tengono lontana una zanzara, se ce ne sono 10 in circolazione trovano il punto dove beccarci e farci quel pruritino che non ci dà proprio sollievo. Ha qualche suggerimento per il dopo zanzara, per evitare questo pruritino che lei chiama pruritino, ma per alcune persone è davvero molto pesante e fastidioso, tanto che si arriva quasi a farsi sanguinare, no, la pelle? È vero, questo il prurito è fastidiosissimo, soprattutto per alcune specie di zanzare lo è più che per altre. Cosa fare dopo la puntura? Io metterei del ghiaccio, oppure se proprio in casi di necessità ci sono delle pomate specifiche che vengono suggerite e che sono lenitive del fastidio, appunto. Insomma, l'ideale sarebbe provare a non farsi pungere. Alcuni consigli li potete trovare, voglio ricordare il libro che svela tutti i segreti, tra l'altro, delle specie più diffuse, l'abitudine, il ciclo vitale, l'habitat, ma soprattutto nel vostro libro date anche tanti trucchi per tenerle lontane, no? Mescolate un po' la scienza e l'umorismo, parlo al plurale perché, come anticipato, è stato scritto a quattro mani con Marina Marazza. La prefazione di Dario Fo, ed è vero che il vostro libro, insomma, La Zanzara, andrà anche a teatro? È già andata in teatro con Roberto Mercadini, che è un poeta narratore qui proprio della Romagna. Stiamo portando in scena Questione di Culex su suggerimento proprio di Dario Fo, che ci ha indicato come drammatizzare la questione Zanzara, per sdrammatizzarla insegnando come fare a tenere lontane le zanzare, come giustamente diceva lei, con i piccoli consigli. I più facili sono svuotare tutti i contenitori inutili dove c'è l'acqua, perché solo lì dentro la zanzara riesce a compiere il proprio ciclo vitale, oppure trattare quei contenitori, per esempio i pozzetti stradali o i pozzetti che abbiamo sotto le caditoie del tetto, perché lì dentro le larve di zanzara compiono il ciclo e possono diventare adulte, quindi noi diventeremmo allevatori proprio di queste zanzare che vengono poi a nutrirsi sul nostro corpo. Lei le conosce bene le zanzare, ma le conosce anche il nostro prossimo ospite Andrea Ribaldone, perché da lui ad Alessandria dintorni di zanzare ce ne sono parecchie. Ciao Andrea. Ciao, come va? Tutto bene? Bene, passiamo dalle zanzare ai fornelli, ma Andrea, anche tu di zanzare te ne intendi? Io di zanzare me ne intendo, e come, perché vicino a me le risaie e quindi zanzara iosa. Però io faccio sempre un trattamento naturale e metto anche gli zampironi la sera, quindi insomma abbiamo questo deore estivo ristorante, si sta bene, ci salviamo. Ecco, è una buona idea, dottor Venturelli, zampironi, abbiamo delle attenzioni particolari per metterli e per renderli ancora più efficaci? Allora, sicuramente è una buona idea mettere gli zampironi, ma sicuramente useranno anche altri sistemi per tenere lontane le zanzare. È vero, Alessandro, ci sono tante zanzare, ho lavorato lì per 4 anni, posso confermarlo. Ma praticamente sono nate lì, dico io. Si trovano bene, si mangia bene, per quello forse. Vede, si mangia bene anche da Andrea Ribaldone, lui tra l'altro è uno chef stellato. Allora si fermi con noi, perché lei ci ha dato, facciamo uno scambio, lei ci ha dato qualche suggerimento per tenere lontano le zanzare, e dottor Venturelli, stia a sentire con noi le ricette, certo, randagie di Andrea Ribaldone, così le impara velocemente, stasera si mette i fornelli anche lei. Andrea, allora andiamo. Sì, oggi ricette davvero anche qua semplicissime da fare veloce per tutti noi randagi che siamo magari senza moglie, senza qualcuno che cucina, o magari senza marito. Che a volte è il marito che cucina. Quindi facciamo la prima, che è una pizza però un po' diversa di solita, con la base di piadina. Okay. Praticamente la piadina classica è quella che potete comprare anche fresca, però non quelle surgelate, magari, però c'è al supermercato, anche molto semplice, imbustata, dura per più di una settimana. E su quella base mettiamo gli ingredienti che ci piacciono per una pizza, quindi il pomodoro o fresco o anche il sugo di pomodoro va benissimo, la nostra mozzarella, e in maniera molto veloce andiamo a farla o al microonde o in forno se vogliamo accendere il forno, ma anche al microonde viene bene perché la pasta non rimane calda, non troppo gommosa, perché la pasta della piadina si presta anche all'uso in microonde, va bene. Quindi una ricetta velocissima, e vedrete che vi stupirà, anche perché non è per niente male, non è come la pizza classica, però, ma dai, è un'idea veloce. Oppure la seconda ricetta randagia, questa prevede una preparazione la mattina, magari prima di andare a lavorare. Prendete le zucchine con un pela patate, le fate tutte a lunghi filamenti sottili e le mettete a marinare con un pizzico di sale, olio, un goccio d'aceto, una goccia di limone, che in casa di solito non manca mai. Sì. La sera vedrete che avranno dato tutta l'acqua, saranno molto morbide. Le potete mangiare così da crude senza nessuna cottura, da abbinare magari con pomodoro, un po' di cipolla se volete, e se vi piace anche un pochettino di formaggio. Quindi una pizza e poi un po' di verdure che fanno bene. Ma questo è fantastico, dottor Venturelli, hai registrato tutto? Ho registrato e ho anche scritto, perché io sono uno di quelli che cucina, mi piace cucinare. Andrò a trovarlo però quando vado ad Alessandria. E certo, e certo, si porti qualche piastrina o qualche zampirone oppure il libro. Certo, quello serve perché schiaccia bene, prendendo la mira. Dottor Venturelli, grazie per essere stato con noi, le auguro una buonissima giornata. Grazie a voi e grazie a lei soprattutto. Andrea, noi ci sentiamo domani, ultima puntata delle ricette randagie, ci stupirai con effetti speciali? Va bene, domani devo dire vi aspetto. Che tra le ricette che ci hai dato ha veramente fatto, ha avuto grande successo quella della pasta ammollata al mattino e poi buttata, forse anche Carmelo mi aveva detto che l'avrebbe provata. Carmelo, l'hai provata? No, perché al mattino quando funziona ed è veloce velocissima come tutte le ricette randagie di Andrea Ribaldone. E domani chiudiamo questa nostra settimana, poi Cuore Denari andrà in vacanza, ma a settembre ritorna. Intanto domani alle 10:30 vi aspetto. Buona giornata da Nicoletta Carbone e anche da Andrea.